Backstage Fest. Il rock and roll come nessuno ve l'ha mai raccontato. Allora, sono Chuck Baird, che oggi vi vuole parlare di canzoni la cui storia inizia ben prima della loro incisione. Canzoni che scelgono la band e non viceversa. Canzoni che decidono il destino di una band. È il caso di Turn, Turn, Turn, il grande successo dei Birds del 1965. Il pezzo era stato scritto da Pete Seeger, ispirato a un brano della Bibbia, per la precisione il libro degli Ecclesiasti, capitolo 3, versi 1 e 8. Roger McGuinn, leader dei Birds, ne aveva già fatto un arrangiamento per la cantante folk Jody Cummings. Chris Hillman, chitarrista ritmico, e Roger McGuinn si accomodarono in fondo al tour bus che li stava portando in giro per l'America per promuovere l'uscita del loro primo straordinario album, Mr. Tambourine Man. Roger suona la sua versione di Turn, Turn, Turn a Chris. E piano piano tutti i componenti della band, compreso il produttore Jim Dickinson, si mettono ad ascoltare con attenzione. Il produttore, terminata l'improvvisata esibizione, dice che il brano non gli piace e aggiunge: questo sarà il vostro ultimo pezzo che andrà al primo posto delle classifiche. Tutti pensarono che fosse una cosa ben strana da dire, anche solo per scherzo. Ma la cosa più strana è che Jim Dickinson aveva ragione. Turn, Turn, Turn fu l'ultima canzone dei Birds ad arrivare al numero uno delle classifiche di vendita. Stop. Backstage Fest. Backstage Fest. Backstage Fest.